occhi, seppellirà l'affossatore, chi terrà il leone a bada, esiliato il domatore. Chi avrà la forza di cercare nuove soluzioni alle improbabili equazioni del terrore? Chi avrà il coraggio di esprimere la sua opinione quando tutto attorno il mondo ha perso la ragione? Senti le trombe, cilie, la cilie aspira questa polvere, respirano le viscere per farsi ricordar. Il gioco è fatto, il dado è tratto, è scacco in tre mosse. Democratico svenduto all'illusione di poter risorgere, di poter riprendere il controllo sul timone della nostra identità. Senti le trombe, cilie alla cinere, aspira questa polvere, aspirano le viscere per farsi ricordare.